Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Siamo qui per voi oggi venerdì, chiudiamo in bellezza la nostra settimana con Filippa Oreggi in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Andiamo a sentire i titoli di oggi. La passione corre su due ruote. Parliamo di bici. Dubbi sul sesso? I giovani cercano risposte su internet. Le buone abitudini che aiutano gambe e vene. Verrebbe da dire, hai voluto la bicicletta? Qua a Milano direbbero bicicletta. E adesso pedale, ed è proprio quello che vogliamo fare oggi con l'aiuto del dottor Franco Confalonieri, che è qui senza bici ma pronto per parlare di ciclismo. Buongiorno dottore. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Immaginavo che per la puntata di oggi sarebbe venuto con quelle belle tutine attillate un po' fosforescenti che ogni tanto si vedono in giro. Non raggiungendo le alte velocità in bicicletta me la cavo anche in jeans e camicia, quindi sto vestito così, sì. 800 24 00 24, Filippa Oreggi si sta ammazzando dalle risate, non so perché, vedendola inguainata in una tutina. Vabbè, fermiamoci qua. I messaggi al 349-238-6666. Torniamo, facciamo subito i seri. Parliamo di bici perché questo è uno sport che piace, ci fa stare bene e consente anche di passare del tempo in modo piacevole e nello stesso tempo rimetterci un po' in forma. Adesso poi speriamo che arrivi questa benedetta primavera. Ma è uno degli sport in assoluto più indicati per metterci in forma, da tutti i punti di vista, dall'apparato cardiovascolare, respiratorio, anche muscolare ovviamente, soprattutto per quanto riguarda gli arti inferiori. È uno sport poco traumatico, è uno sport divertente, è uno sport facile, quindi sicuramente uno dei mezzi migliori per coniugare divertimento e salute. Vediamo come la pensa il nostro ospite che abbiamo al telefono, Davide Cassani. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ma lei è stato un grandissimo ciclista, attualmente è uno dei massimi esperti di questa disciplina, possiamo definirla così? Sì, assolutamente. La bicicletta è la mia passione, da bambino sognavo di diventare un ciclista, sognavo di fare un Giro d'Italia, un campionato del mondo, e la passione non è svanita con gli anni. Adesso ne ho 49, ho percorso circa 700.000 chilometri su una bicicletta da corsa e continuo ad amare la bicicletta perché, come avete detto voi, la bicicletta è salute, benessere, è divertimento, aggregazione, è tutto quanto. Allora, dottor Confalonieri, io so che lei freme perché ormai ha preso l'abitudine di fare lei le domande, io sono padrona di casa, gliele lascio fare. Vada con la domanda. Ma sì, andiamo anche oggi con una domanda un po' provocatoria, vediamo di scatenare i nostri ascoltatori, se riusciamo anche oggi. E ci sono due grandi partiti quando si parla di sport, il partito della bicicletta e il partito della corsa. E qualcuno poi passa da uno all'altro, qualcuno li coniuga e si dedica alla multidisciplina, però direi che gran parte di coloro che amano la bicicletta evitano di correre, gran parte di coloro che amano la corsa evitano di utilizzare la bicicletta. Quindi oggi vogliamo sapere dai nostri ascoltatori perché preferite la bicicletta rispetto alla corsa, o viceversa, perché non la prendete nemmeno in considerazione e continuate a correre. Quindi qual è la vostra scelta e perché avete fatto questa scelta? Davide, vuoi aggiungere anche tu una domanda? Io posso dire molto perché vado in bicicletta e corro a piedi, ho partecipato anche lo scorso anno alla maratona di New York, è stata la mia quinta, ho fatto Milano, la maratona di Milano un paio di anni fa, impiegando 2 ore e 50, ed io riesco a coniugare molto bene questi due sport. La bicicletta ha un problema, hai bisogno di tempo, hai bisogno della bicicletta e quindi non sempre hai la possibilità di portarla con te. Io correndo a piedi, quindi quando ho anche, non so, 30, 40, 50 minuti solamente a disposizione, lo faccio, e quando corro a piedi vado fortissimo anche in bicicletta. Quindi penso che sia ideale portare avanti queste due discipline sportive. Una volta si diceva che se uno va in bicicletta non può correre a piedi, se corri a piedi non puoi fare ciclismo. Assolutamente falso. Anzi, sono due attività che si integrano perfettamente. Sono complementari. Complementari. Ma Davide, qualche cosa di diverso lo daranno. Che cosa ti dà un'uscita in bicicletta e che cosa ti dà la corsa? La bicicletta mi dà la libertà, la possibilità di vedere posti nuovi, di sentire l'odore, di spaziare con lo sguardo in posti meravigliosi, tra l'altro sentendo solo il rumore della tua bicicletta. La corsa ti fa sentire il tuo cuore, ti mette alla prova. Quando fai una maratona ti senti sfinito, stanco, ma riesci a capire quanto può darti il tuo corpo e soprattutto le grandi potenzialità che hai dentro di te. E quindi io penso che siano due sport meravigliosi, faticosi per l'amor di Dio, però ti danno sensazioni che chi non fa sport non può capirle. Allora, se fate sport, 824-0024, se non lo fate, volete farvi convincere e quindi a iniziare, 349-238-6666, potete scriverci, mandarci un messaggio, mandarci un'email, aspettiamo. Dottor Confalonieri, Davide ci ha davvero dato una bella lezione. Infatti noi ci siamo un po' innamorati. Sì, non ero certo che avrebbe espresso le cose con questa maestria, non aggiungerei nulla perché direi che ha parlato perfettamente del bello di queste due discipline. Allora adesso aspettiamo la voce dei nostri ascoltatori. Una mela al giorno. E dalla bici ci trasferiamo per un attimo, forse un pochino di più, al computer, perché internet sta diventando un educatore sessuale. Infatti una recente ricerca ha dimostrato che tra i come si fa, quelli non tecnici, indagati su Google dagli utenti di tutto il mondo, al primo posto svetta proprio la domanda e la richiesta su come si fa l'amore. 10 milioni 800 mila risultati, a cui si aggiungono i 18 milioni 700 mila di come si fa l'amore per la prima volta. Questo chiedono soprattutto i nostri ragazzi, un po' i ragazzi di tutte le età, a vedere dai numeri, e noi per i ragazzi, esclusivamente per i ragazzi, ne parliamo e chiediamo un consiglio ad Alberto Pellai, medico ricercatore all'Università di Milano, ha svolto numerose ricerche, è il papà di Questa Casa Non È Un Albergo. Alberto, ciao! Eccomi qua, ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora, ci rivolgiamo al pubblico dei ragazzi, o meglio, ai genitori di questi ragazzi che evidentemente, non trovando informazioni a casa e a scuola, cercano di sapere quello che è giusto sapere. Alberto. Sì, credo che la lettura proprio di questo dato che è apparso sui giornali e quindi l'alta frequentazione di Google per chiedere la domanda come si fa l'amore da parte soprattutto dei giovanissimi sia un po' l'equivalente dell'operazione che hanno sempre fatto i ragazzini, gli adolescenti, quando 20 anni fa o 30 anni fa magari sfogliavano un vocabolario e andavano a cercare tutte le parole legate alla sessualità rispetto alla quale avevano magari domande, bisogni nascosti. Direi che per noi adulti questo dato, questa informazione relativa alla frequentissima consultazione di internet ci dice che i nostri figli sono esattamente come noi 20 anni fa, pieni di domande. Sì, parla per te Alberto 20 anni fa. Anche 30, anche 15, eh? Va bene. 10 per quello. Comunque alla ricerca di risposte, ed effettivamente un po' forse racconta anche la solitudine, ecco, sì, che connota tutto il mondo dell'esplorazione intorno al tema della sessualità, per cui i ragazzi sono effettivamente o si sentono spesso molto soli e non avendo adulti con cui condividere discussioni, proprio condividere una relazione educativa, si affidano e si fidano un po' delle risposte che gli derivano da un motore di ricerca. Allora, insieme ad Alberto abbiamo pensato di dare un po' delle indicazioni e istruzioni per i genitori all'ascolto. Innanzitutto io, Alberto, penserei a trovare le parole giuste. Tante volte noi non parliamo di prima volta con i nostri figli, non parliamo di sesso, evitiamo il discorso proprio perché non abbiamo le parole, non sappiamo cosa dire, siamo noi primi imbarazzati. Quindi abbiamo pensato ad un libro. Tanto per cominciare, un buon libro, e mi sento di un po' magari in imbarazzo nel dirlo, ma io ho scritto un libro che si chiama Mamma cos'è l'amore, ed è proprio un libro che aiuta i genitori a trovare le parole giuste per parlare di sessualità con i più piccoli. È organizzato in una sezione addirittura proprio con le domande e le risposte, non perché i genitori leggendo le risposte le devono dire uguali ai loro figli, però dà delle idee, accende pensieri. Questo sono per i bambini piccoli, perché è meglio, no, iniziare a parlare di educazione sessuale già quando i bambini sono piccoli, dalle scuole elementari. Per i più grandi, Alberto? Per i più grandi direi proprio di entrare dentro alla scatola magica, cioè di navigare il web e provare magari a consultare insieme un sito come quello che è stato realizzato dalla SIGO, Società Italiana di Ginecologia Ostetricia, si chiama Scegli Tu, quindi www.sceglitu.it. È un sito molto scientifico, molto affidabile per la tipologia delle informazioni che vengono proposte ai ragazzi e può essere davvero uno strumento da usare insieme. Andiamo a un film? Ma secondo me è un ottimo film da vedere insieme ai genitori e figli, rimane Juno, perché è proprio un film che racconta in modo direi molto candido e molto realistico della, spesso anche della sprovvedutezza con cui i ragazzi adolescenti entrano nella sessualità adolescente. Questo film però non banalizza niente, ma con molto candore, spontaneità, anche con molto principio di realtà, racconta poi come si deve muovere una famiglia intorno ad un figlio che si è trovato in una situazione di difficoltà. Grazie ad Alberto, tra l'altro noi Alberto ci vediamo domani per Questa casa non è un albergo, insomma ci lanciamo. Ah, non vedo l'ora di essere lì. Lo so, infatti fai bene perché sei in mia compagnia a mezzogiorno, allora ti aspetto. Grazie ad Alberto Pellai, buona giornata. A domani. Pronto soccorso. E noi torniamo in sella, oggi parliamo di bici, ma dottor Confalonieri, Davide Cassani ci ha detto, ci ha magnificato come ha fatto lei il ciclismo, però ci ha anche detto che non è così semplice organizzare un'uscita. Ma allora, se noi vogliamo mantenerci in forma sulle due ruote, quanto dobbiamo uscire? Basta il weekend? Molte persone utilizzano proprio il sabato e la domenica per uscire un po' in bici. Basta questo o bisogna anche allenarsi durante la settimana? Ma direi che il weekend già fa la differenza. Un'uscita regolare tutte le settimane rispetto al nulla è incredibilmente positiva e fa molto molto bene, e tra l'altro è facile organizzarsi anche d'inverno perché si sfruttano le ore e i percorsi un pochettino più caldi. L'ideale sarebbe poi integrarlo durante la settimana, magari con un'uscita o due anche brevi, magari di corsa o eventualmente sui rulli o eventualmente sulle bike in palestra, ma questo magari più avanti. Uno per qualche mese si limita l'uscita durante il weekend e poi incrementa l'attività con qualcosa, non necessariamente l'uscita in bici che è difficile da organizzare durante la settimana. Davide, da soli o in gruppo? Come ci si allena meglio? Tenendo conto che si vedono tante persone che escono insieme, ma ad un occhio esperto non può evitare di cogliere che ci sono delle differenze. Ma sai, l'uscita in gruppo è un po' più complesso, soprattutto per chi è agli inizi. Stare a ruota, essere in 7-8 persone può portare a qualche rischio. L'ideale sarebbe all'inizio uscire da soli o comunque al massimo in due persone, poi dopo, quando si è un po' più consapevoli delle proprie possibilità, allora si può anche uscire in gruppo. Naturalmente l'uscita in gruppo è più piacevole perché si può stare a ruota, si può parlare, si può dialogare, però all'inizio secondo me l'ideale sarebbe uscire da soli. Andiamo nella provincia di Mantova, ci aspetta Simone, buongiorno. Buongiorno, io sono Simone, chiamo da Viadana, provincia di Mantova. Sì. Io ho cominciato ad andare in bicicletta, io sono nasco podista, ho cominciato ad andare in bici perché naturalmente correre sempre tutti i giorni, andare in bici mi aiutava a recuperare la pesantezza muscolare, a recuperare alcuni infortuni, fatto sta che mi sono innamorato anche della bici. Per cui mi sono trovato a partecipare l'anno scorso per la prima volta a una gara combinata a Carpi, dove tengono il sabato la gara di ciclismo, e la domenica la maratona di Carpi, la maratona d'Italia. Ho ottenuto l'ottimo risultato di un terzo posto assoluto della classe degli over 40. Per cui questa combinazione corsa-ciclismo mi aiuta molto a diciamo stare bene fisicamente e quindi diciamo non a recuperare dal podismo la pesantezza della corsa e insomma, così, insomma un'abbinata vincente. E Guido da Milano ci scrive: se posso vorrei rilanciare, aggiungete il nuoto a bici e corsa, il triathlon amatoriale è il massimo. dottor Confalonieri. Beh, come di triathlon l'ho portato quasi in Italia, quindi sicuramente si sfonda una porta aperta. Alberto dice che lui scrive i libri, lei che, ma io no, cioè... nel senso che per anni è stato uno sport che ho seguito proprio come tecnico. È diventato anche un po' rosso, come mai? No, perché mi emoziona parlare del passato e di triathlon e quindi magari arrossisco. Però tornando alle tematiche più tecniche, sicuramente l'abbinamento corsa bici, come diceva Cassani, è indicatissimo, e sottolineavo un aspetto importante al nostro ascoltatore: la bici utilizzata per chi è un podista come allenamento di recupero, ma non solo, anche la bicicletta usata soprattutto agli inizi della stagione per i lavori lunghi, i lavori oltre l'ora e mezza, le due ore che servono per preparare magari le gare come la mezza maratona o la maratona, inizialmente possono essere fatti in bici, non ci allenano muscolarmente ma ci allenano organicamente e ci preparano ai lavori lunghi di corsa senza sovraccaricarci. Quindi sono molteplici le potenziali interazioni fra questi due sport. Davide, io invece con te, dato che poi so che devi scappare, vorrei tornare proprio alla bici e vorrei che tu dessi qualche istruzione per l'uso ai principianti. Allora, la prima cosa è avere una bicicletta su misura. Una bicicletta su misura è l'ideale per non avere problemi muscolari, problemi alla schiena. Poi cominciare con gradualità, cominciare con 20, 30, 40 km per poi crescere progressivamente. Come 20, 30? No, scusa Davide, non ho capito. Io se mi metto in bici posso subito partire 20, 30, 40 km? No, tranquillamente cominciare con 20 km. Come avete detto, non è traumatica la bicicletta, perché il correre a piedi bisogna cominciare anche a volte con 2 km, 2,5 km in bicicletta, 20 km si possono fare tranquillamente anche chi non l'ha mai usata se non per andare a fare la spesa. Quindi 20 km sono veramente alla portata di tutti quanti e da lì si comincia. L'importante è sentire, avere sensazioni, la capacità di capire quello che uno può fare, non deve mai esagerare, perché poi se uno esagera perde il gusto e soprattutto la passione nel continuare. Quindi gradualità, un concetto e un messaggio molto caro al dottor Confalonieri, si può partire dai 20 km e soprattutto stare attenti anche ai segnali che il corpo ci manda. Se siamo stanchi scendiamo dalla bici, giusto? Esatto. E questa è la cosa più importante. Prima avete parlato anche dei problemi che può portare la corsa, del fatto che comunque in bicicletta si possono fare allenamenti lunghi. Io sono riuscito a fare 2 ore e 50 in una maratona facendo al massimo, e parlo del correre a piedi, 25 km come distanza più lunga, perché abbinavo la bicicletta e con la bicicletta facevo le 3-4 ore di allenamento, che mi ha portato ad avere la resistenza per affrontare una maratona e a farla anche in un modo abbastanza veloce. E quindi, anche per quanto mi riguarda, io riesco a capire esattamente quello che mi può dare, che mi può dire il mio fisico, perché l'ho fatto per lavoro e l'ho fatto per tanti anni, e quindi in base alle che io ricavo riesco ad avere una tabella di allenamento ideale. Io quando parto in bicicletta, quando parto a correre a piedi, ho un'idea di massima di quello che devo fare, ma soprattutto in base a quello che sento faccio. Se quel giorno non sto bene faccio 10 km a piedi o ne faccio 50 in bicicletta, se non sto bene ne faccio un po' certo. Di più. Allora, grazie a Davide Cassani per essere stato con noi, quindi ascoltare il corpo, questo è un po' il messaggio chiave. Dottor Confalonieri, Davide, grazie per essere stato con noi, un abbraccio, buona bici, buona corsa. Grazie mille, buongiorno a tutti. Dottor Confalonieri? Due sottolineature brevissime. La prima, l'importante soprattutto per chi comincia è scegliere la bicicletta giusta. Evitiamo problematiche alla schiena e a livello muscolare. La seconda, ascoltiamoci. Le tabelle vanno bene ma sono pericolose. Dobbiamo applicarle con intelligenza ascoltando quello che ci dice il nostro corpo. Sono due insegnamenti preziosissimi che ci lascia Davide. Ritorniamo subito dopo i mercati e il meteo con Bruno da Siracusa, molti messaggi e altri ascoltatori. Parleremo anche naturalmente di gambe in bici. La bici secondo lei le modella, le rende più toniche, più belle? Non è forse proprio l'ideale, non è forse tali. L'ideale, l'obiettivo estetico. Comunque vorremmo parlare un po' di gambe e bicicletta e di donne e bicicletta. Eccoci, siamo tornati e finalmente, perché abbiamo Bruno da Siracusa, buongiorno. Buongiorno signora, io sono un praticante da circa 20 anni, ho 50 anni, sì. E percorro diversi chilometri in bici. Innanzitutto sono perfettamente d'accordo con il professor Confalonieri per quanto riguarda le tabelle di preparazione. sono deleterie se non applicate correttamente, mentre ascoltare il proprio corpo e la propria mente soprattutto fa molto molto bene. Poi lei è fortunato, intorno a Siracusa chissà che bei percorsi. Sì, sì, no, si cammina abbastanza agevolmente, ancora il traffico qui è abbastanza scarso, quindi... Il clima è adatto. Il clima è adatto, insomma, Bruno ha tutte le fortune. Dottor Confalonieri, quindi vede che anche Bruno dice... un nuovo elemento, il nostro ascoltatore, ascoltare la mente non soltanto il corpo, è giustissimo, nel senso che comunque la motivazione, il desiderio, la voglia sono spie anche di una condizione profonda del nostro organismo e quindi la tabella va bene, ci dà un orientamento, ci consente di non sbagliare, ma poi va applicata con intelligenza, con buon senso, ascoltando le sensazioni che ci mandano i nostri muscoli, il nostro cuore e anche la nostra mente che probabilmente ci parla della nostra fatica o del nostro desiderio di faticare più profondi. Allora, da Siracusa andiamo a Vicenza. Adelio ci scrive: ho smesso di giocare a pallavolo per problemi di cartilagine al ginocchio ed ora di legamenti e ho provato la mountain bike ascoltando la vostra trasmissione. Dottor Confalonieri, ha visto? Non solo il ginocchio non mi dà problemi, ma ora dalla passione mi prendo la bici da corsa. Allora, Adelio si è convertito alle due ruote e ci parla di mountain bike e ci parla poi da bici da corsa, quasi come l'una preparasse il passaggio all'altra, è corretto? È corretto ed è un percorso tipico questo di Adelio. Moltissimi atleti o ex atleti cominciano con la bicicletta proprio in fase di rieducazione, di recupero, un problema al ginocchio, la necessità di tonificarsi dal punto di vista muscolare. Ecco, la bicicletta, non ci sono traumi, non ci sono sollecitazioni, si mantiene la forma, si potenziano i muscoli e poi la si scopre e ci si innamora. È tipico anche cominciare con la mountain bike perché è più facile, adatta a qualsiasi percorso, spesso è più divertente perché ci consente anche un maggior contatto con la natura, però poi dopo qualche anno di mountain bike si cerca qualcosa di più gratificante ed allora la bici da strada, che consente maggiori percorrenze, che consente di esprimere maggiori velocità, che consente di andare più lontano, sostituisce la mountain bike. Dal punto di vista delle indicazioni entrambe fanno molto bene, entrambe non hanno grosse controindicazioni e quindi vanno bene, bisognerebbe scegliere un po' il gusto. Indubbiamente la bici da strada resta un po' la regina. Allora, prima di andare a Fiordaliso che ci chiama dalla provincia di Sondrio, Fiordaliso, buongiorno. Buongiorno. Voglio leggere anche a Fiordaliso i consigli di Franco da Cantù. Da ex ciclisti, se si è alti tra 1,50 m e 1,75 m circa, raccomando un telaio corto, proprio per affaticare poco la schiena. La sella alta al punto che a pedalata lunga la gamba si distende e non si allarghi. Poi tanta tenacia e volontà. Dottor Confalonieri. Bah, sono senz'altro consigli corretti e ci consentono di tornare sul discorso delle bici su misura. Ecco, la scelta della bici giusta è fondamentale, quindi non dobbiamo limitarci a scegliere il modello in base al costo, alle caratteristiche o addirittura all'estetica, ma dobbiamo scegliere un negoziante che sia in grado di metterci in sella e di modificare. Scegliere il telaio innanzitutto delle giuste dimensioni, come diceva il nostro ascoltatore, e poi modificare la posizione della sella, l'altezza della sella, l'altezza del manubrio in funzione delle nostre caratteristiche, in modo da tutelare le gambe che possano esprimersi da un punto di vista muscolare e soprattutto la colonna che sia in una corretta posizione rettilinea e quindi non sia sovraccaricata dall'allenamento in bicicletta. Questo vuol dire scegliere la bici su misura, sì, a cui si riferiva, sì, Davide Cassani, sì, così sì. Rispondiamo anche a Dominique Fiordaliso, eccoci a lei. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, sono stato operata praticamente in 2 anni 2 volte di ernia del disco. Ahia. L'ultima l'ho avuta a novembre del 2009 e mi è stato completamente vietato di andare in bici. Io amo la bici e purtroppo neanche la Secret mi hanno detto. Volevo sapere da voi un consiglio come posso fare. Dottor Confalonieri, una mano a Fiordaliso. Beh, come si dice spesso, è difficile dare un consiglio così a distanza su una patologia delicata come l'ernia. In assoluto non esiste una controindicazione assoluta, scusate la ripetizione, perché è stato operato di ernia rispetto all'utilizzo della bicicletta. Indubbiamente in una prima fase è necessario fare tutta la rieducazione, tutta la riabilitazione, potenziare in modo adeguato tutta la muscolatura paravertebrale, però a quel punto, se scegliamo una bicicletta adatta, percorsi adatti, evidentemente con microtraumatismi ridotti, e la posizione corretta, non vedo controindicazioni. Oppure potrebbe essere questa un'occasione per dedicarsi ad un'altra attività sportiva. Fiordaliso, sino adesso è andato in bici, ha avuto due ernie. Potrebbe scegliere il nuoto. Potrebbe scegliere il nuoto, e quindi tanti nostri ascoltatori costretti, arrivano al messaggio, a interrompere una determinata attività sportiva per un problema di salute e articolazione, hanno poi scoperto con passione che esisteva un'altra che dava altrettante soddisfazioni. Un po' di varietà. Indubbiamente da questo punto di vista il nuoto è l'attività ideale sia nella gestione di un'ernia, per chi voglia evitare l'intervento quando questo è possibile, sia in fase di rieducazione post intervento. Angelo ci chiama da Bergamo. Buongiorno Angelo. Eccomi qua, buongiorno, buongiorno. Ma eccoci, sì, noi stiamo bene, lei? Anche. Oh, allora. Niente, la mia avventura domenicale con la bicicletta, io e i miei amici di pedale, niente, ci troviamo tutti i ciclisti della bassa bergamasca, di Lecco, Como, Varese, tutti nella nostra città, a Bergamo Alta. Sì. Ma la cosa più bella è che mentre stai salendo tu a Bergamo Alta, un signore di 70-75 anni, più scaltro di te, ti sorpassa, che tu sei lì con la lingua fuori, e ti fa, dai che ce la fai, arriviamo su, poi beviamo il caffè. La cosa più bella è essere tutti insieme ai ciclisti, perché a Bergamo Alta d'estate è chiusa alle macchine, sì. Siamo solo biciclette in Bergamo Alta. Hai presente cosa vuol dire? No, certo. Si vede il cappuccio tutti insieme, si parla di bici, e alle 12:30 siamo già tutti a casa a mangiare polenta e coniglio. Magnifico, Angelo, cosa vuoi di più dalla vita? Dottor Confalonieri, quasi quasi lei potrebbe andare. Lo prendete anche il dottor Confalonieri? Con gradualità, sì. Nel senso, nel senso che io trovo un modo per raggiungere Bergamo Alta, poi prendo la bicicletta e scendo verso la pianura per dedicarmi a polenta e coniglio. Questa è la mia gradualità. No, è molto bella questa telefonata, anche perché evidenzia un aspetto fondamentale della bicicletta. A tutti voi, credo, sarà capitato la domenica di trovare queste comitive di ciclisti che, se siamo in auto, magari un pochettino sotto sotto ci innervosiscono anche perché ci obbligano a fare qualche acrobazia per non dargli fastidio, ma credo che questo elemento di aggregazione sia uno degli elementi più tipici della bicicletta. Diciamo che il corridore fa molto più gruppo che non il podista. Ecco, colui che va in bicicletta tende a stare molto di più in gruppo, e c'è proprio questo elemento, il ritrovarsi quasi come in un rito, in un certo punto, in un certo giorno, una certa ora, bere il caffè insieme, fare colazione insieme, raccontarsela su e poi partire in bicicletta per condividere la gioia di fare fatica in compagnia. E noi restiamo, Angelo ci parlava di polenta e coniglio, io non andrei proprio a parlare di ricette, ma del carburante giusto da mettere per andare in sella. Andrea da Segrate ci suggerisce questo, di aprire questa finestra, perché lui dice: nelle uscite superiori allora ricordarsi di mangiare e bere prima che finisca la benzina. Che cosa, dottor Confalonieri? Una crostatina. Brava, adesso va bene, cerchiamo le parole in cui non c'è la R, così sono meno a disagio. No, io comunque, se vuole le dico Sassari, Sassuolo. La domanda è importante. Indubbiamente qualsiasi esercizio fisico, e quindi anche l'uscita in bicicletta, va affrontata essendoci alimentati bene prima, in modo completo, quindi una prima colazione con carboidrati e proteine, latte e cereali, fette biscottate, miele, marmellate e quant'altro, va benissimo. Poi, se l'uscita è lunga, è necessario indubbiamente, durante l'uscita, da un lato reidratarci, quindi bere acqua va benissimo, prevenendo la sensazione di sete, che è già un indice di squilibrio, quindi bere prima di avvertire la sete. E poi se non abbiamo difficoltà a digerire, vanno benissimo le crostatine, una fetta di torta, anche una brioche o del pane, eventualmente con prosciutto magro, formaggio magro. Viceversa, se ricerchiamo la prestazione, abbiamo problemi digestivi, le maltodestrine in barrette vanno perfettamente bene, ci consentono di mantenere costante il livello degli zuccheri nel sangue e quindi di ottimizzare il nostro rendimento in bicicletta. Adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, poi torniamo insieme al nostro Giuseppe da Milano, ma saluto già il dottor Guido Arpaia. Buongiorno dottore. Buongiorno a lei, come va? Tutto bene? Noi bene. Lei va in bici? Sì, quando ci riesco, quando posso. Bene. Dottor Arpaia, eccoci a lei. Volevo sapere, per la bicicletta funziona, cioè fare spingere i pedali e quindi insomma il movimento necessario per far andare la bici, salita, discesa, piano, funziona bene per le nostre gambe? È una sorta di pompa, penso alle vene? Assolutamente sì, muovere le gambe, di camminare, correre senza forzare, andare in bicicletta, nuotare sono le cose migliori per le nostre gambe, anche per chi ha problemi di varici abbastanza importanti, certo magari non per chi dovesse aver avuto complicanze importanti di questo tipo di malattia, ma per chi ha problemi diciamo di normale gestione, il muovere le gambe è sempre comunque utile. Giuseppe ci chiama da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Senti, io avevo questo problema, io sono un ciclista domenicale della Martesana vicino Milano, che molti conoscono. Il mio problema, chiamiamolo di ordine sanitario di questo tipo, io a dicembre ho avuto un intervento di strippa alla grande safena destra. Ho dimenticato poi di chiedere alla visita di controllo, dice, ma io posso, quando posso riprendere e andare in bicicletta? Ma vede Giuseppe che lei cade a fagiolo. Dottor Arpaia, quando va in bici Giuseppe? Sulla Martesana? Se ho capito bene, è stato operato a settembre, quindi tempo mesi fa, può tranquillamente riprendere ad andare in bicicletta. Ecco, una cosa che è giusto far rimarcare, i ciclisti, soprattutto quelli che pedalano tanto e che quindi magari fanno tanti chilometri, sono un pochino più predisposti degli altri alle cosiddette varici da sforzo, che sono dovute un pochino al fatto che durante la pedalata, quando questa è molto prolungata e molto importante, un iperafflusso di sangue alle gambe che quindi sovraccarica un po' le vene e che le può sfiancare. Le varici nel ciclista importante sono abbastanza frequenti. In certi casi c'è da stare attenti sull'operarle o meno, cioè da verificare se effettivamente sono da operare piuttosto che essere solo un'espressione funzionale dell'uso delle gambe. Senta, ma non servono vero calze particolari eccetera, si va tranquilli? Allora si può andare tranquilli, perché io so che lei vuole infilare le calze a tutti, dottor Arpaia. Beh, avete un allora, po' questa abitudine. Io ho un pochino questa mania, però le posso dire che dai dati sperimentali però già molto importanti come numerosità e come risultati, sappiamo che fare un'attività fisica con le calze elastiche, con determinati tipi di calze elastiche indossate, può essere favorevole non solo sul ritorno al peso, ma addirittura sul metabolismo muscolare. Veramente? Sì, assolutamente. Siamo ancora in fase diciamo sperimentale, però ci sono dati molto confortanti. Abbiamo trovato un nuovo doping, forse. Dottor Confalonieri, conferma anche lei. Sono totalmente d'accordo allora con quanto diceva il dottor Arpaia. E in effetti, facciamo questa brevissima divagazione, sembra che uno degli effetti che hanno migliorato molto la prestazione dei nuotatori con i nuovi costumi non fosse legato al galleggiamento, ma quanto al fatto che il muscolo compresso migliorava la sua efficienza metabolica, così come diceva Arpaia. È uno scenario molto interessante come prospettiva. Vede, ne stiamo parlando tra i primi allora. Tra i primissimi. Tra i primissimi. Dottor Arpaia, grazie per essere stato con noi. Buona giornata, grazie dottore. Grazie a lei. Molti di voi si chiederanno perché non affrontiamo il discorso, ci sono arrivati tantissimi messaggi, Sellino, prostata, Sellino, disfunzione erettile, impotenza. Perché? Perché noi lunedì parleremo proprio di disturbi sessuali maschili e quindi invito tutti, anche i ciclisti all'ascolto, a mettersi in contatto con noi per lunedì, perché parleremo proprio, dedicheremo un piccolo spazio della trasmissione alla bici, uomo e bici. Intanto chi l'ha vista verrebbe da dire, abbiamo annunciato Federica Sciarelli, grande appassionata di bici, non riusciamo a trovarla perché noi allora chi l'ha vista lasciamola lì e noi dottor Confalonieri la vedremo sicuramente una prossima volta, magari qualcuno la sta vedendo in bici, ce la saluti per noi. Pio dalla provincia di Ascoli Piceno. Pio, buongiorno. Buongiorno. Io sono appassionato di bici, naturalmente, altrimenti non avrei chiamato. Però, senta Pio, io non la sento bene. Allora, se lei mette giù, io la faccio subito richiamare e ci sentiamo, va bene? Grazie Pio. Lo stanno richiamando, dottor Confalonieri. Arrivano molti messaggi di donne che, come la nostra Federica, amano andare in bici. Quali vantaggi? Ci sono delle differenze? Possiamo dire che è uno sport che va bene per gli uomini e per le donne e i vantaggi sono identici? No, direi che gli uomini hanno quel problemino che noi, di cui parleremo sì. Lunedì. Lasciamo da parte il sellino. Questa è già una differenza importante, che nel senso che per le donne c'è una controindicazione in meno molto significativa, perché evidentemente non possono avere problemi a livello prostatico. Inoltre, un altro motivo per cui la donna, tutto sommato, è ulteriormente avvantaggiata dalla bicicletta è che molto spesso i sovraccarichi per la donna a livello della colonna sono importanti e significativi. Si pensi alle gravidanze, si pensi comunque al tipo di vita e di attività fisica che fa la donna. Quindi un'attività che sollecita poco la colonna, con pochi traumatismi, così come la bicicletta, va sicuramente bene. Inoltre è indubbiamente un'attività che, consentendoci sforzi prolungati di bassa intensità, è molto molto valida nel favorire il dimagramento se abbinata a un corretto regime alimentare. Spesso le donne decidono di fare sport perché vogliono dimagrire. Ecco che il ciclismo risulta ulteriormente indicato per le donne. Infine, essendoci un importante lavoro di grosse masse muscolari, è sicuramente anche un'attività utile a prevenire o a ridurre l'osteoporosi, che spesso è uno dei problemi più significativi per le donne in menopausa. Perché quindi direi che donna e bicicletta sicuramente sì. Perché l'attività fisica funziona un po' come un massaggio per le nostre ossa. Esatto, massaggia le ossa, favorisce la loro attività, la loro continua ricostruzione, il loro rimodellamento e quindi previene l'osteoporosi. Ecco, quindi abbiamo, partendo da un argomento ameno, come poi alcuni possono pensare, quindi l'attività sportiva, pertanto per rispondere a un sms di un ascoltatore, stiamo così sottolineando i vantaggi per la salute. Molti problemi seri di salute si evitano proprio con una regolare attività fisica. Quindi, dottor Confalonieri, la prendiamo da largo, perché noi parliamo alle persone che stanno bene e vogliamo quindi che continuino a stare bene, consigliando loro uno stile di vita alimentare, motorio, che riesca anche a diventare preventivo. Esatto, questa è la parola magica, preventivo. In effetti si fa un gran parlare di prevenzione, ma soltanto a livello teorico, e poi l'attenzione di tutti è quasi sempre centrata sulla terapia della patologia. L'esercizio fisico, così come le corrette abitudini di vita, sono probabilmente lo strumento più efficace nella prevenzione e quindi nell'evitare o nel ritardare l'insorgenza di una patologia. Quindi parlare di esercizio fisico credo significhi anche parlare di qualcosa di molto importante dal punto di vista medico. E vorrei sottolineare un altro aspetto. All'inizio abbiamo chiesto: meglio la corsa o meglio la bici? Abbiamo ricevuto moltissimi messaggi che ci dicono: meglio la corsa e la bici insieme, quindi meglio il cross training, meglio abbinare due attività. Questo è indicativo di una cultura dell'esercizio fisico che sta crescendo nel nostro paese in modo molto importante, e quindi ci fa molto ben sperare anche in termini di prevenzione. Pio, l'abbiamo ripescata, buongiorno e ribuongiorno, ci racconti, siamo in chiusura ma abbiamo il tempo per lei. Spero si senta bene questa volta. Sì, benissimo. Senta, io voglio parlare di bicicletta al chiuso, praticamente in una palestra, una bellissima sala da spinning. Quante ore si possono fare settimanalmente? Io normalmente ci vado tutti i giorni, faccio un'ora e mezza di spinning abbinato ad altre piccole attività sempre all'interno della palestra. Ho una certa età, vorrei mantenermi bene, diciamo, ecco. Grazie Pio. Dottor Confalonieri, bici al chiuso sono quelle che vanno veloci? Lo spinning sono corsi di gruppo nei quali si fa un'attività su una simil bicicletta, che però spesso è molto intensa dal punto di vista cardiovascolare. Quindi due indicazioni molto rapide: si può fare sport tutti i giorni, anche un'ora, un'ora e mezza non è un problema, però attenzione agli sport ad elevata intensità e non costruiti su misura, così come sono le lezioni di spinning, perché possono portarci oltre e quindi avere delle controindicazioni. Grazie al dottor Confalonieri, grazie a voi che ci avete seguito, appuntamento a domani a Questa Casa Non È Un Albergo, mentre per i ciclisti che uomini, appuntamento a lunedì, perché parleremo proprio di uomo e sellino, a sabato, quindi tra pochissimo. Buona giornata.